GR24, il sole 24 ore. Spending review, nessuna nuova manovra, ma un'operazione strutturale, l'incontro con enti locali e sindacati. L'Italia perde l'uomo simbolo del Made in Italy, addio a Sergio Pininfarina. Firme false per il governatore lombardo Formigoni, chiesto il rinvio a giudizio per il presidente della provincia di Milano Podestà. Mediaset stoccata alla RAI, investiamo anche in periodi di crisi, serata evento per Celentano. Buongiorno dalla redazione, buona giornata da Anna Migliorati. Inizia in questi minuti il tavolo tra governo e parti sociali sulla spending review. Prima c'è già stato questa mattina l'incontro con gli enti locali. Allora andiamo subito a Roma da Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno. La scure della spending review arriva su ministeri colpiti soprattutto sanità, interno e giustizia ed esteri. Il premier Mario Monti è intenzionato ad andare avanti. Non si tratta di una nuova manovra precisa, ma di un'operazione strutturale per evitare che tra ottobre e dicembre si debba aumentare l'IVA, e per far questo servono 4,2 miliardi. Un provvedimento urgente, secondo il vice ministro dell'economia Vittorio Grilli. Sentiamo. Che la spending review non è che si fa in un mese e poi ce ne se ne dimentica, no? È chiaro che è un cantiere e quindi continuerà. La spending review, vuol dire continuare a guardare all'interno della pubblica amministrazione per efficientarla, per ridurne i costi, e quindi è un processo che non si interrompe certo domani. I tagli in totale ammonterebbero a 10 miliardi di euro, ma il governo potrebbe rimandare una seconda tranche in autunno. Ed appena effettuato l'incontro con gli enti locali a Palazzo Chigi, il governo incontra adesso i sindacati. Da parte di CGIL, CISL e UIL e da parte del PD si chiede di non tagliare la spesa sociale, mentre il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi spera che ci siano risorse anche per gli investimenti. Per il momento qui da Roma è tutto, per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. A Caprera parla il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, sta parlando in questi istanti, si sta inaugurando il Memoriale a Garibaldi, sentiamo. Questo combattente, questo uomo d'arme, questo condottiero e questo animatore del Movimento per l'Unità ebbe la capacità di riconoscere i limiti del suo ruolo, ebbe la capacità di temperare il suo orgoglio e di concorrere a quel concerto di volontà che fu determinante per raggiungere il grande obiettivo della unificazione nazionale. Così le parole di Napolitano. L'Italia ha perso un simbolo, è morto Sergio Pininfarina, classe 1926, torinese, l'uomo che inventò il Made in Italy, come è stato più volte definito, senatore a vita, presidente di Confindustria dal 1988 al 1992. Lo ricorda così al microfono di Anna Marino Ernesto Gismondi, fondatore di Artemide, e con lui negli anni di presidenza di Viale dell'Astronomia. Mi ha chiamato e mi ha detto: ti occupi di design? E mi ha detto: vorrei che venissi a farmi da vicepresidente. Siamo tutti e due della stessa razza. Un'immagine di quel periodo, cioè un momento, un ricordo che la porta indietro negli anni quando pensa a lui. Siamo andati insieme a colloquio con Andreotti al suo studio privato che è lì. Io sono rimasto molto colpito dalla capacità di Sergio Pininfarina di muoversi con un grande, è stato un grande statista, sapeva trattare dal nostro punto di vista degli imprenditori. Che uomo era, come l'ha conosciuto lei, come amico? Come amico era molto simpatico, molto semplice, non ha mai fatto pesare a nessuno, né che era il presidente, né che aveva anche un background industriale alle spalle. In Europa ora la situazione è grave, dobbiamo fare ancora molto, così il presidente della Commissione europea Barroso ha chiuso l'intervento al Parlamento europeo sui 6 mesi di presidenza di turno danese. Dopo l'accordo di Bruxelles ora si dovrà fare i conti con le resistenze di Olanda e Finlandia, pronte a dire no allo scudo anti-spread. Quanto potrebbe pesare un no? La domanda la giriamo ad Antonio Pollio Salimbeni a Bruxelles, buongiorno. Buongiorno a voi. Ma direi che intanto non siamo di fronte proprio a un no preventivo, ma il segnale politico chiaro, netto, i due paesi l'hanno dato. Teniamo conto che da sempre nella storia della gestione della crisi Olanda e Finlandia hanno fatto da battistrada le posizioni tedesche. Nulla ci dice che la Germania è d'accordo, ma certo fa pensare la storia che c'è alle spalle. L'ipotesi quindi secondo te potrebbe essere quella di una Germania che manda avanti Olanda e Finlandia? Ma direi che è presto per dirlo, dovremo aspettare intanto la riunione dell'Eurogruppo lunedì prossimo a Bruxelles per capire. È chiaro che la cancelliera Angela Merkel è in forte difficoltà, ma è anche evidente, e così è stato percepito dai mercati e dal mondo intero, che l'accordo per gestire la crisi del debito sovrano e la crisi bancaria nell'Eurozona è stato deciso nel consenso generale, all'unanimità dei 17 capi di Stato e di Governo. Sarà difficile possano smentire se stessi così platealmente alla luce del sole. In ogni caso, forse, penso che sia arrivato il momento di aiutare la cancelliera tedesca in questa fase difficile per tenerla stretta, appiccicata all'accordo raggiunto di fine settimana, e forse un'idea potrebbe essere quella di affidare la guida dell'Eurogruppo al ministro delle finanze tedesche Wolfgang Schäuble al posto di Juncker. Potrebbe essere un buon incentivo per la Germania. Grazie allora ad Antonio Pollio Salimbeni. Allora sentiamo anche come vanno i mercati. Valeria De Rosa. Sì, ben ritrovata Anna, a te, ai nostri ascoltatori. E allora dobbiamo dire che le piazze del vecchio continente continuano a viaggiare con il segno più, ma con una certa cautela. Parigi guadagna lo 0,21%, Francoforte lo 0,6%, Londra guadagna lo 0,21%, a Piazza Affari FTSE MIB e FTSE All Share lo 0,55%. Diciamo che oltre a Barroso, che questa mattina ha ribadito come l'accordo fosse stato sottoscritto e approvato da tutti, anche Barron poi poco fa, il Presidente del Consiglio europeo, è intervenuto per sottolineare che tutti nel Consiglio europeo hanno dato il via libera a questo piano per l'acquisto di titoli di Stato da parte del Fondo Salva Stati, e quindi i mercati ci credono. Ma i mercati soprattutto guardano a quello che potrebbero fare le banche centrali nei prossimi giorni, a partire dalla Banca Centrale Europea che si riunisce giovedì e che potrebbe tagliare il costo del denaro. Questo ovviamente per incrementare, per cercare di dare un aiuto alla crescita. Euro su dollaro 1,2589, quindi ancora una certa debolezza nel cambio, mentre per quel che riguarda il differenziale BTP Bund, lieve calo 414 punti base. Per i mercati è tutto. E noi siamo alla cronaca. Il procuratore aggiunto di Milano, Alfredo Robledo, ha chiesto il rinvio a giudizio per falso ideologico per il presidente della provincia di Milano, Guido Podestà, e altre 9 persone in relazione alle presunte firme false, 926 in totale, che sarebbero state poste a sostegno del listino di Roberto Formigoni e della lista del PDL per le elezioni regionali del 2010. L'udienza preliminare si aprirà il prossimo 12 ottobre. Alcuni sistemi di controllo della Costa Concordia erano in avaria dal 9 gennaio, ben 4 giorni prima del naufragio che provocò la morte di 32 persone. Questo avrebbero concluso, secondo quanto scrive oggi il Corriere della Sera, i periti chiamati dal Tribunale di Grosseto ad esprimersi sulle possibili cause del naufragio al Giglio. Il guasto avrebbe riguardato anche la scatola nera, rendendo impossibile così una ricostruzione esatta di quanto accadde durante il disastro. E ora parliamo di TV. Da Mediaset Rai oggi sono arrivati alcuni annunci. Jacopo Matano. Sì, è Il mondo allo specchio, il titolo del PRI Italia di quest'anno, in programma a Torino dal 16 al 21 settembre 2012 e presentato oggi a Roma. Il Festival Internazionale della Rai, giunto alla 64esima edizione, propone diverse novità culturali e artistiche, a partire dai 300 programmi in concorso e dal premio, una serigrafia dell'artista piemontese Michelangelo Pistoletto. L'importanza di questo evento nelle parole di Giovanna Milella, segretario generale del PRI. Tenere uniti i paesi non solo attraverso l'economia, non solo attraverso le leggi, ma attraverso una lingua comune che è la lingua del dialogo e del rispetto. E intanto a Viale Mazzini si stringe sulle nomine. Prevista per le ore 20 di questa sera la riunione della commissione di vigilanza per eleggere i 7 componenti del CDA. Sullo stallo dei giorni scorsi è arrivata la stoccata del vicepresidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, che ha parlato di situazione paradossale. L'azienda di Cologno Monzese ha annunciato investimenti di 2 miliardi di euro nei contenuti dei programmi. A voi. Grazie. Tra le novità Mediaset, 2 serate evento che Canale 5 dedicherà l'8 e 9 ottobre all'atteso ritorno live di Adriano Celentano all'Arena di Verona. Le compagnie assicurative sono pronte a ridurre i prezzi delle RC auto. L'annuncio è arrivato questa mattina dal presidente dell'ANIA, all'associazione di categoria, Aldo Minucci. Una decisione, dicono, che arriva in questo periodo che è il più critico dal dopoguerra, nell'ambito però di un'azione congiunta di sistema che aggredisca alla radice quelle componenti strutturali che mantengono elevato il costo dei sinistri. Andiamo a Ginevra ora da Barbara Gallavotti di Mebius, perché si attende anche qui un annuncio importante. Al SAN di Ginevra è atteso un grande annuncio. L'appuntamento è per domani, mercoledì 4 luglio. Gli scienziati presenteranno il risultato dell'analisi dei dati raccolti negli ultimi 2 mesi di funzionamento dell'acceleratore LHC. Sarebbe naturale aspettarsi che l'annuncio riguardi finalmente la scoperta del bosone di Higgs, la famosa particella di Dio, di cui erano già state viste tracce interessanti a dicembre. Eppure non è assolutamente certo che sarà così, anzi potrebbero esserci sorprese. Secondo alcune ipotesi, la tanto attesa particella di Dio potrebbe avere un volto diverso da quello che ci si aspettava, oppure addirittura potrebbe non venire sola, ma essere accompagnata da altre particelle ancora del tutto sconosciute. Se così fosse, le teorie su come funziona l'universo andrebbero radicalmente riviste. Di certo, l'appuntamento al CERN è estremamente importante per la fisica. Non a caso si prevede che vi assisteranno ospiti illustri, fra i quali Peter Higgs, lo scienziato inglese da cui l'inafferrabile bosone prende il nome. E grazie Barbara Gallavotti. Ancora gran caldo su gran parte d'Italia, con Caronte che non lascerà la penisola ancora per 10 giorni. Anche oggi temperature roventi, ma in lieve attenuazione comunque nei prossimi giorni, dicono i meteorologi. Qualche temporale arriverà al nord. E ora in chiusura il ciclismo con il Tour de France. Oggi si corre la terza tappa, la partenza poco fa. Pier Augusto Stagi. Sì, da Orsia a Bologna-sur-Mer, chilometri 197. La corsa è partita 20 minuti fa, al chilometro zero sono andati subito in fuga 5 corridori e c'è Grivko che è già maglia gialla virtuale. Arriviamo appunto a Bologna-sur-Mer, dove il Tour è venuto già 2 volte, nel 94 con la vittoria di Jean-Paul Van Poppel e Eric Zappel nel 2001, ma quest'oggi volata non dovrebbe esserci, perché ci sono 4 salite negli ultimi 17 chilometri con il Mont Lambert a soli 6,5 km dall'arrivo. Un finale così probabilmente spaccherà il gruppo e porterà alla ribalta un corridore come Peter Sagan, Philippe Gilbert o la maglia gialla Fabian Cancellara. Ripetiamo, la gara appena partita da Orsia a Bologna-sur-Mer, 5 uomini in fuga con Grivko che è virtualmente maglia gialla di questa terza tappa del Tour de France. È tutto da Bologna-sur-Mer. Grazie per Augusto Stagi. C'è solo il tempo per una notizia dell'ultima ora appena battuta dalle agenzie. Nella spending review ci sarebbe previsto anche il taglio del 20% dell'organico dei dirigenti della pubblica amministrazione, del 10% dei dipendenti. Così sarebbe stato riferito poco fa nel corso della riunione a Palazzo Chigi tra governo, regioni e enti locali e poco fa anche i sindacati. La riunione, dicevamo, è ancora in corso. Allora vi aggiorneremo nella prossima edizione alle 14. Ancora una buona giornata. Questa edizione invece termina qui. Una buona giornata da Anna Migliorati. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.